che la divinità non fosse solo maschile, ma anche femminile, è attestato da tutto il mondo religioso. Per questo, nella Bibbia, che è anche un libro storico, troviamo popoli che adoravano divinità femminili. Questo particolare viene narrato dagli scrittori ispirati dal vero Dio, non tanto per curiosità, ma perché rappresentava una delle più grandi aberrazioni dell'allontanamento dalla verità, rivelata dal Dio di Israele. Non a caso il primo grande comandamento dato dall'Eterno Dio al suo popolo è «Non avere altre divinità all'infuori di me», perché, come egli stesso aggiunse in seguito, «sono un Dio geloso, al punto di chiamarsi il geloso», Esodo 34.14. Basterebbe solo questo aspetto di Dio per comprendere quanto sia grave crearsi divinità che non esistono, dato che l'unico vero Dio vivente è quello rivelatosi sul monte Sinai a Mosè e ai profeti dell'Antico e Nuovo Patto. Sarebbe molto interessante vedere come gli uomini nel corso della storia abbiano creato le loro divinità maschili, ma ancora di più lo è considerare come e perché abbiano creato delle divinità femminili, dato che il termine Dio evoca nella nostra mente un essere maschile, anche se in genere la quasi totalità dei credenti cristiani concretamente crede che la divinità sia asessuata. Ma ancora più interessante dal punto di vista biblico è prendere in esame quando, come e perché il popolo di Israele è stato sedotto dalle divinità femminili e come e perché anche nel cattolicesimo, definito cristiano, si sia arrivati ad avere un culto rivolto ad una donna, cioè a Maria. Se questo è sbagliato, bisogna dire che è stato infranto il più grande comandamento, e di conseguenza si è commesso e si commette il più grande peccato che l'uomo possa operare nei confronti di Dio. La posta in gioco è molto alta e non è possibile ignorare la problematica. Per alcuni parlare di idolatria, in seno ad una religione definita cristiana potrebbe sembrare irriverente, ma non dobbiamo dimenticare che il popolo di Israele, pur avendo avuto la rivelazione e la legge di Dio, si è macchiato del più grande peccato nell'adorare e servire delle divinità femminili. Per cui, se ha sbagliato il popolo di Dio, niente di strano se anche coloro che si definiscono cristiani possano avere una divinità femminile, a meno che non si pensi di essere migliori di chi ci ha preceduto. Un atto di orgoglio che ci condannerebbe inesorabilmente ancora di più. Uno dei primi episodi dove troviamo descritto che gli ebrei adoravano delle divinità femminili si trova nel libro dei Giudici, il quale, per chi non avesse dimestichezza con la storia del popolo di Israele, racconta episodi di uomini che liberavano il popolo dalla schiavitù delle nazioni vicine, dopo neanche 100 anni dall'uscita d'Egitto e dal passaggio del Mar Rosso in terra asciutta. Giosuè rimandò il popolo, e i figli di Israele andarono ciascuno nel suo territorio a prendere possesso del paese. Il popolo servì l'Eterno durante tutta la vita di Giosuè e durante tutta la vita degli anziani, che sopravvissero a Giosuè, che avevano visto tutte le grandi opere che l'Eterno aveva fatte in favore di Israele. Anche tutta quella generazione fu riunita ai suoi padri. Poi, dopo quella vi fu un'altra generazione che non conosceva l'Eterno, né le opere che egli aveva compiute in favore di Israele. I figli di Israele fecero ciò che è male agli occhi dell'Eterno e servirono gli idoli di Baal. Abbandonarono l'Eterno, il Dio dei loro padri, che li aveva fatti uscire dal paese d'Egitto, e andarono dietro ad altri dei, fra gli dei dei popoli che li attorniavano. Si prostrarono davanti a essi e provocarono l'ira dell'Eterno. Abbandonarono l'Eterno e servirono Baal e le Ashtaroth. Giudici 2.6.13. Dunque, dopo solo 2 generazioni da Mosè, il popolo di Israele adora Baal, la divinità dei Cananei e dei Fenici, e le Ashtaroth. Altre versioni della Bibbia rendono che il popolo di Israele adoravano Baal e gli idoli di Astarte, ma una simile traduzione non aiuta il lettore a comprendere che le Ashtaroth erano divinità femminili, cosa palesata in questa versione dall'uso dell'articolo femminile le. Anche da una ricerca non molto approfondita, si viene a sapere che Ashtaroth è il plurale di Ashtoreth, una divinità femminile che assume vari nomi e connotazioni in riferimento a tempi e luoghi diversi, mentre tra i Fenici era chiamata Ashtoreth e veniva venerata a 1 Re 11.5.33. tra i cananei era chiamata Ashtara e rappresentava la consorte di El, il padre di Baal, la più alta divinità cananea. In Babilonia era chiamata Ishtar e in Aram Atart, dai greci. Questa divinità femminile era chiamata Astarte o Afrodite e dai romani Venere. A seconda dei luoghi era considerata la dea dell'amore sensuale, della maternità e della fertilità, come a Babilonia, o la dea della guerra e del sesso, come in Canaan, oppure la dea dell'amore erotico, come in Grecia e a Roma. Il culto di questa divinità era associato alla prostituzione religiosa e a pratiche oscene e immorali. 1 Re 14.24. Dal testo che abbiamo letto, ci rendiamo conto che gli israeliti furono adescati dal culto di questa divinità femminile dopo la morte di Giosuè. Troviamo narrazioni relative a questa pratica, spregevole anche al tempo del profeta Samuele, 1 Samuele 7.3, 4.12.10 e perfino il grande saggio. Re Salomone seguì questa idolatria. 1 Re 11.5, 2 Re 23.13. Nulla di strano perciò che anche fra le divinità romane ce ne fossero di quelle femminili, se non addirittura famiglie intere di divinità. Si pensi alla dea egiziana Iside, moglie di Osiride, la quale, nell'iconografia esiaca diffusa in Egitto, viene raffigurata mentre allatta Horus, il loro bambino. Questa rappresentazione ricorda la più tarda raffigurazione delle vergine che allatta Gesù, ben diffusa nell'arte copta. Non solo. Molto eloquente. È anche la preghiera accorata a Iside formulata da Apuleio di Madaura prima della sua iniziazione. Tu sì sei santa, tu sei in ogni tempo salvatrice dell'umana specie, tu, nella tua generosità, porgi sempre aiuto ai mortali, tu offri ai miseri in travaglio il dolce affetto che può avere una madre. Te onorano gli dèi del cielo e rispettano quelli dell'inferno, tu fai ruotare la terra, dai la luce al sole. Governi l'universo, calchi col tuo piede il Tartaro, cioè l'inferno. Dunque la dea Iside era identificata con il principio vitale che alimenta l'universo, fu ritenuta nello stesso tempo garante e custode dell'ordine cosmico, ma anche una madre misericordiosa e soccorritrice dei devoti in pericolo. Essa fu, così, al centro di una pietà calda e personale, tratti di devozione, che anticipano quella che sarà la più tarda pietà mariana. Perciò, quello che poi diventerà il culto mariano non è altro che una inclinazione naturale dell'uomo ad avere una divinità femminile, attitudine che già troviamo nei Vangeli apocrifi, ai quali occorre dare più attenzione per quanto riguarda lo sviluppo della mariologia. Di tanto in tanto, i Vangeli apocrifi vengono alla ribalta, perché oltre a soddisfare la curiosità dei lettori intorno a momenti oscuri della vita di Gesù, confermano quella devozione popolare che andava diffondendosi in merito al culto di Maria e di Giuseppe. Perciò è possibile affermare che proprio i Vangeli apocrifi costituiscono i più antichi documenti relativi alla pietà mariana. Cristianesimi nell'antichità, Giancarlo Rinaldi, pag. 100-398-799. Non tutti lo sanno, ma il Protovangelo di Giacomo, che contiene nuclei narrativi antichi da potersi far risalire anche alla metà del secondo secolo, parla con toni poetici della nascita miracolosa di Maria da Gioacchino e Anna, della sua infanzia nel Tempio, della sua perpetua verginità, delle nozze con il canuto Giuseppe, il quale aveva avuto figli da un precedente matrimonio, e dei fratelli di Gesù, dei quali parlano i Vangeli e che non avrebbero potuto essere figli della sempre vergine. Oltre a ciò, vi è il racconto del transitus di Maria, secondo il quale, dopo la morte, il suo corpo non avrebbe conosciuto la decomposizione, ma sarebbe stato assunto in cielo e rivivificato, con la riunione del suo spirito. Così, gli spunti mariani contenuti nei libri apocrifi e gli elementi pagani delle divinità femminili prima di Cristo saranno sviluppati al punto da giungere ai corposi trattati teologici che perverranno a proclamare Maria mediatrice tra Dio e l'umanità. Inoltre, le dottrine mariologiche le troviamo nel calendario cattolico romano, come la festa dell'Immacolata Concezione, celebrata l'8 dicembre, la festa dell'Assunta, celebrata il 15 agosto, la festa dei Santi Anna e Gioacchino, genitori di Maria, celebrata il 26 luglio, la festa della Natività della Vergine, celebrata l'8 settembre, e la festa della presentazione al Tempio della Beata Vergine Maria, che viene celebrata il 21 novembre. Detto questo, si può affermare senza ombra di dubbio che il culto mariano fu a Nuovo Testamento icipantico testamento dalla pietà popolare e solta Nuovo Testamento successivamente Nuovo Testamento e recepito dalla speculazione dotta degli ecclesiastici. Giancarlo Rinaldi, 802. In conclusione, alla luce dell'autorevole parola di Dio, si può affermare che qualsiasi culto, adorazione o devozione data a Maria abbia delle origini umane e dalle divinità pagane, e, per questo, sia una grave violazione nell'ambito del culto reso all'unico vero Dio vivente. E, comprensibilissimo lo sdegno che può far sorgere in alcuni questa conclusione, come del resto è comprensibilissimo il forte sdegno che ne avevano gli egiziani nel dire che Iside, da loro ritenuta la madre di Dio, non fosse tale. Tuttavia è vero pure che queste riflessioni potrebbero essere un punto di partenza per verificare con la parola di Dio la propria professione di fede, perché, come dice anche il Catechismo della Religione Romana, l'idolantico testamentoria C è quando l'uomo onora e riverisce una CRE antico testamento URA al posto di Dio. 2113. Dicembre 2009. Ellero.